Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer, traduzione di Bruno Dera. Hermann Broder si girò e aprì un occhio. Nel suo stato sognante si domandò se si trovasse in America, a Chivkaf o in un campo di concentramento tedesco. Vide addirittura se stesso nascosto nel fienile di Lipsk. Di quando in quando tutti quei luoghi si confondevano nella sua mente. Sapeva di trovarsi a Brooklyn, ma udiva nazisti urlare, conficcavano le baionette nel mucchio cercando di stanarlo mentre lui si rintanava sempre più in profondità dentro il fieno. La lama di una baionetta gli sfiorò la testa. Svegliarsi del tutto richiedeva uno sforzo della volontà. «Basta!» disse a se stesso e si drizzò a sedere. Era già metà mattina. Jadwiga doveva essersi vestita già da un po'. Nello specchio di fronte al letto e divideva la propria immagine, la faccia tirata, i pochi capelli che gli restavano, un tempo rossi, ora giallastri e striati di grigio, occhi azzurri, penetranti, ma miti, sotto sopracciglia arruffate, il naso stretto, le gote scavate, le labbra sottili. Hermann si destava sempre malconcio e scompigliato, come se avesse trascorso la notte lottando. Quel mattino aveva persino un segno nero e azzurro sulla fronte, si toccò il livido. Che cos'è? Poteva mai essere stata la baionetta del sogno? L'idea lo fece sorridere. Probabilmente aveva picchiato la testa contro lo spigolo dell'armadio a muro andando in bagno durante la notte. «Jadwiga!» chiamò. Jadwiga apparve sulla soglia. Era una polacca dalle gote rose, il naso rincagnato, gli occhi chiari. Aveva i capelli chiari come lino, raccolti in una crocchia e tenuti a posto da un unico spillone. Gli zigomi erano alti, il labbro inferiore tumido. In una mano stringeva lo strofinaccio della polvere, nell'altra un piccolo annaffiatoio. Indossava un vestito a scacchi rossi e verdi e aveva i piedi infilati in logore pantofole da casa. Jadwiga era rimasta per un anno con Hermann nel campo profughi tedesco, dopo la guerra, e si trovava in America già da 3 anni, ma aveva conservato la freschezza e la timidezza di una contadina polacca. Non si serviva di cosmetici, era riuscita a imparare soltanto poche parole d'inglese. Sembrava addirittura, a Hermann, che portasse con sé gli odori di Lipsk. A letto sapeva di camomilla. Dalla cucina giungeva ora l'aroma delle barbabietole che cuocevano, delle patate novelle, dell'aneto e di qualcosa d'altro di estivo e terrestre cui Hermann non riusciva ad attribuire un nome, ma che evocava un ricordo di Lipsk. Jadwiga lo guardò con bonario rimprovero, scuotendo la testa. «È tardi, ho fatto bucato e spesa, e anche colazione, ma sono pronta a mangiare di nuovo». Jadwiga parlava il polacco dei contadini, Hermann le si rivolgeva in polacco, o talora in Yiddish, una lingua che lei non capiva. Egli inseriva nella sacra lingua alcune citazioni bibliche o frasi del Talmud, a seconda di come gli saltava il ticchio. Jadwiga ascoltava sempre. «Shiksha», le domandò, «che ore sono?» «Quasi 10. Bene, mi vesto. Gradiresti un po' di tè?» «No, non è necessario». «Non girare a piedi nudi, vado a prenderti le pantofole, le ho lucidate». «Le hai lucidate di nuovo? E chi mai lucida le pantofole? Erano tutte rinsecchite». «E con che cosa le hai lucidate? Col catrame? Sei sempre una contadina di Lipsk». Jadwiga si avviò all'armadio e gli portò l'accappatoio e le pantofole. Pur essendo sua moglie, e sebbene i vicini la chiamassero signora Broder, si comportava con Hermann come se si fossero trovati sempre a Chivkaf e lei fosse ancora la serva nella casa del padre di lui, Reb Shmuel Leib Broder. L'intera famiglia di Hermann era stata annientata nell'Olocausto. Hermann viveva perché Jadwiga lo aveva nascosto in un fienile nel suo villaggio, a Lipsk. Persino la madre di lei non sapeva che egli vi si nascondesse. Dopo la liberazione, nel 1945, Herman aveva saputo da un testimone oculare che sua moglie, Tamara, era stata fucilata, una volta privata dei loro figli, portati via per essere uccisi. Herman aveva fatto in quella di vivere la Germania e il campo dei profughi, e in seguito, una volta ottenuto il visto americano, l'aveva sposata con il rito civile. Jadwiga era disposta a convertirsi alla fede ebraica, ma sembrava insensato imporle il fardello di una religione che egli stesso non osservava più. Il lento e periglioso viaggio fino alla Germania, la traversata sulla nave da guerra fino ad Halifax, il tragitto in torpedone fino a New York, avevano sconcertato a tal punto Jadwiga che ancora oggi temeva di viaggiare sola sulla sotterranea. Non si spingeva mai più in là di pochi isolati da casa. In realtà non aveva bisogno di recarsi in nessun posto. Mermaid Avenue le offriva tutto quel che poteva occorrerle: pane, frutta, verdure, carne kasher. Herman non mangiava carne di maiale, e talora un paio di scarpe o un vestito. Nei giorni in cui Herman restava in casa, lui e Jadwiga passeggiavano insieme sulla Broadwalk. Sebbene le dicesse ripetutamente che non aveva alcuna necessità di avvinghiarglisi, non stava per fuggire e abbandonarla, lei lo teneva sempre saldamente per il braccio. Aveva le orecchie assordate dallo strepito e dal clamore, tutto vibrava e tremolava davanti ai suoi occhi. Le vicine la esortavano ad andare con loro alla spiaggia, ma dopo la traversata dell'oceano, aveva paura del mare. Un solo sguardo alle onde che si gonfiavano e lo stomaco cominciava a rivoltarsi. Talora Herman conduceva Jadwiga in un ristorante economico in Brighton Beach, ma lei non riusciva ad abituarsi ai treni che saettavano lì vicino sulla sopraelevata, con il loro rombo assordante, né alle stridenti automobili che correvano in una direzione e nell'altra, o alle orde di persone nelle strade. Herman le aveva comprato un ciondolo da collo, conteneva un foglietto di carta sul quale erano scritti il suo nome e l'indirizzo, nell'eventualità che si fosse smarrita, ma non bastava a dare conforto a Jadwiga, che non si fidava di nessuno scritto. Il cambiamento nella vita di Jadwiga sembrava voluto dalla provvidenza. Per 3 anni Herman era dipeso nel modo più assoluto da lei. Gli aveva portato cibo e acqua nel fienile, portando via i suoi escrementi. Quando Marianna, la sorella di lei, aveva bisogno di salire sul fienile, Jadwiga si arrampicava su per la scala Pioli e avvertiva Herman di ficcarsi più addentro, nello spazio che aveva scavato nelle profondità del fieno. Durante l'estate, quando veniva riposto il fieno appena falciato, ella nascondeva Herman nel ripostiglio delle patate. Esponeva a un incessante pericolo la madre e la sorella. Se i nazisti avessero scoperto che nel fienile di quel ebreo si sarebbero affrettati a fucilare tutte e 3 le donne, e forse avrebbero anche incendiato il villaggio. Ora Jadwiga abitava in un piano alto di un palazzo d'appartamenti a Brooklyn. Aveva 2 stanze principesche, un ingresso, un bagno, una cucina col frigorifero, il forno a gas, la corrente elettrica e persino il telefono con il quale Herman le parlava quando era in viaggio. Il lavoro di Herman poteva svolgersi in luoghi lontani, ma la sua voce glielo portava vicino. Quando era in vena le cantava al telefono la canzone che prediligeva. La canzone restava una canzone. Herman stava bene attento a non mettere incinta Jadwiga. In un mondo nel quale i tuoi figli potevano essere strappati alla madre e fucilati, che diritto aveva di generarne altri? Per Jadwiga l'appartamento era il compenso dell'assenza dei bambini. Sembrava un palazzo incantato delle fiabe che le vecchie comari del villaggio erano solite raccontare filando il lino. Bastava premere un pulsante sulla parete e si accendeva la luce. Dai rubinetti scorreva acqua calda e fredda. Giravi una manopola e appariva una fiamma sulla quale potevi cucinare. C'era un'apposita vasca per i bagni quotidiani, che teneva pulita e libera dalle cimici e dalle pulci. E la radio! Herman la regolava su una stazione che trasmetteva in polacco mattina e sera, canzoni polacche, mazurche, polche, ogni domenica la predica di un sacerdote, e le notizie della Polonia, caduta nelle mani dei bolscevichi, riempivano la stanza. Jadwiga non sapeva né leggere né scrivere, ma Herman scriveva lettere per lei a sua madre e a sua sorella. Quando arrivava la risposta, scritta dal maestro del villaggio, Herman gliela leggeva. A volte Marianna, la sorella, accludeva un piccolo stelo con la foglia di un melo o un fiorellino, ricordi di Lipsk nella remota America. Eppure, in quel lontano paese, Herman era il marito, il fratello, il padre, il dio di Jadwiga. Ella lo aveva amato anche quando lavorava come serva nella casa di suo padre. Vivendo con lui in paesi stranieri, si era resa conto di quanto aveva ragione stimandone la capacità e l'intelligenza. Hermann sapeva farsi strada nel mondo, viaggiava su treni e torpedoni, leggeva libri e giornali, guadagnava soldi. Se lei aveva bisogno di qualcosa per la casa, non doveva fare altro che dirglielo, ed egli gliela portava personalmente, oppure veniva un fattorino del servizio espresso a consegnarla. Jadwiga firmava tracciando 3 circoletti, come Hermann le aveva insegnato a fare. Una volta, il 17 maggio, il giorno del suo onomastico, Hermann le aveva portato 2 pappagallini, quello giallo era il maschio e quello azzurro la femmina. Jadwiga si era affrettata a chiamarli Wojtusz e Marianna, i nomi del suo diletto fratello e della sorella. Con la madre non era mai andata d'accordo. Dopo la morte del babbo, sua madre si era presa un secondo marito che picchiava i figliastri. Per colpa di lui, Jadwiga aveva dovuto andarsene da casa e lavorare come serva per gli ebrei. Se soltanto Hermann fosse rimasto in casa più spesso, o almeno avesse dormito in casa ogni notte, Jadwiga si sarebbe ritenuta completamente fortunata. Ma egli si guadagnava da vivere viaggiando e vendendo libri. Quando era lontano, Jadwiga teneva la porta chiusa con la chiave per paura dei ladri, e anche per far sì che le vicine restassero fuori. Le vecchie che abitavano nel palazzo le parlavano in un misto di russo, inglese e yiddish. Curiosavano nella sua vita, domandandole da dove venisse e che cosa facesse suo marito. Hermann l'aveva ammonita di dir loro il meno possibile, insegnandole a rispondere in inglese: «Scusatemi, non ho tempo». Hermann si sbarbò mentre la vasca andava riempendosi d'acqua. La barba gli cresceva in fretta, durante la notte la faccia gli diventava pungente come una grattugia. Adesso era in piedi davanti all'armadietto delle medicine. Un uomo dalla corporatura esile, alquanto più alto della media, con il torace stretto e coperto da ciuffi di peli che ricordavano i brandelli di imbottitura sporgenti da vecchi divani. Mangiava quanto voleva, ma restava magro. Si vedevano i profili delle costole, il pomo di Adamo si muoveva su e giù come di sua iniziativa. Tutto l'aspetto di lui rispondeva alla stanchezza. Mentre stava lì in piedi, cominciò a tessere una fantasticheria. I nazisti erano tornati al potere e avevano occupato New York. Lui, Hermann, si stava nascondendo in quel bagno. Jadwiga aveva fatto murare la porta, verniciare la parete in modo che sembrasse identica al resto della stanza. Dove mi metterei a sedere? Lì, sulla tazza del water. Potrei dormire nella vasca da bagno? No, è troppo corta. Hermann esaminò le piastrelle del pavimento per vedere se ci fosse spazio abbastanza da consentirgli di distendersi, ma anche se si fosse sdraiato diagonalmente avrebbe dovuto flettere le ginocchia. Bene, perlomeno lì vi sarebbero stati luce e aria. Il bagno aveva una finestra che dava su un cortiletto. Hermann cominciò a calcolare quanto cibo avrebbe dovuto portargli Jadwiga ogni giorno per aiutarlo a sopravvivere. 2 o 3 patate, una fetta di pane, un pezzo di formaggio, un cucchiaio d'olio d'oliva e di tanto in tanto una pillola di vitamine. Non le sarebbe costato più di $1 alla settimana, al massimo $1.50. Avrebbe avuto lì qualche libro e carta per scrivere. In confronto al fienile di Lipsk si sarebbe trattato di una prigionia sontuosa. Avrebbe tenuto a portata di mano una rivoltella carica, ma magari un fucile mitragliatore. Quando i nazisti avessero scoperto il suo nascondiglio e fossero venuti ad arrestarlo, lui avrebbe dato loro il benvenuto con una raffica di pallottole, lasciandone una per sé. La vasca quasi traboccava, il bagno era pieno di vapore. Rapidamente Hermann chiuse i rubinetti, quelle fantasticherie a occhi aperti avevano assunto il carattere di ossessioni. Non appena fu nella vasca, Jadwiga aprì la porta. «Ecco sapone! Ho ancora una saponetta! Sapone profumato! Ha un buon odore! 3 pezzi per 10 centesimi di dollaro!» Jadwiga odorò la stessa la saponetta e gliela porse. Aveva ancora le mani ruvide come quelle di una contadina. A Lipsk faceva il lavoro di un uomo, seminava, falciava, mieteva, piantava patate, segava persino la legna e la spaccava. Le sue vicine, lì a Brooklyn, le davano ogni sorta di lozioni per ammorbidirsi le mani, che però restavano ugualmente callose come quelle di un operaio. Aveva i polpacci muscolosi, duri come sassi. Tutte le altre parti del corpo, però, erano femminee e lisce. Aveva i seni pieni e bianchi, i fianchi rotondi, dimostrava meno dei suoi 33 anni. Dal levarsi del sole finché andava a dormire, Jadwiga non riposava mai in un momento. Trovava sempre qualcosa da fare. L'appartamento non era lontano dall'oceano, ma attraverso le finestre aperte penetrava parecchia polvere e per tutto il giorno Jadwiga lavava, smacchiava, lucidava, sfregava. Erma ricordava come l'avesse lodata sua madre per tanta laboriosità. «Su, ti insapono», disse Jadwiga. In realtà a lui andava di restare solo. Non aveva ancora finito di escogitare i particolari su come nascondersi dai nazisti lì a Brooklyn, ad esempio la finestra. Avrebbe dovuto essere mimetizzata, in modo che i tedeschi non la vedessero, sì, ma come? Jadwiga cominciò a insaponargli la schiena, le braccia, i lombi. Egli frustrava il suo desiderio di avere figli e pertanto aveva preso il posto di un bambino per lei. Lo accarezzava, giocava con lui. Ogni volta che Herman usciva di casa, temeva di non vederlo più tornare. Si sarebbe smarrito nel tumulto e nella sconfinata immensità dell'America. Ogni suo ritorno sembrava un miracolo. Jadwiga sapeva che quel giorno doveva andare a Filadelfia, dove avrebbe trascorso la notte, ma perlomeno sarebbe rimasto a far colazione con lei. L'aroma del caffè e del pane abbrustolito giunse fino a loro dalla cucina. Jadwiga aveva imparato a fare panini con semi di papavero, come quelli di Chifkaf. Gli preparava ogni sorta di ghiottolerie e cucinava che egli prediligeva, pallottoline di pasta bollita servite con carne e verdura, polpette con il borscht, miglio al latte, fiocchi d'avena al sugo. Gli preparava ogni giorno una camicia stirata, la biancheria intima e un paio di calzini. Avrebbe voluto fare tanto per lui, ma egli aveva bisogno di così poco. Era più spesso in viaggio che a casa. Jadwiga ardeva dal desiderio di parlargli. «A che ora parte il treno?» domandò. «Come?» «Alle 2.» «Ieri hai detto alle 3.» «Pochi minuti dopo le 2.» «Dov'è questa città?» «Filadelfia, vuoi dire? In America, dove dovrebbe essere?» «È lontana?» «A Lipsk sarebbe lontana, ma qui dista soltanto poche ore di treno.» «Come fai a sapere chi vuole comprare libri?» Herman divenne cogitabondo. «Non lo so, cerco di trovare acquirenti.» «Perché non li vendi qui, i libri? C'è tanta gente qui.» «A Coney Island, vuoi dire? Qui vengono a mangiare il gran turco soffiato, non a leggere libri.» «Che genere di libri sono?» «Oh, di genere diversi. Come costruire ponti, come dimagrire, come governare, e libri di canzoni, di storie, di commedie, la vita di Hitler.» La faccia di Jadwiga divenne seria. «Scrivono libri su quel porco?» «Scrivono libri su porci di tutti i tipi.» «Bene.» E Jadwiga andò in cucina. Dopo qualche momento, Herman la seguì. Jadwiga aveva aperto la porticina della gabbia e gli uccelli stavano svolazzando nella stanza. Quello giallo, Wojtusz, si appollaiò su una spalla di Herman. Gli piaceva becchettargli il lobo dell'orecchio e togliergli briciole dalle labbra o dalla punta della lingua. Jadwiga si meravigliò, constatando quanto più giovane, riposato e allegro sembrava Herman dopo aver fatto il bagno ed essersi sbarbato. Gli servì panini dolci caldi, pane scuro, un omelette e caffè con panna. Cercava di nutrirlo bene, ma lui non mangiava come si deve. Affondava i denti nel panino, ne staccava un boccone, poi lo metteva da parte. Si limitava ad assaggiare l'omelette. Lo stomaco gli si era senza dubbio ristretto durante la guerra, ma Jadwiga ricordava che aveva sempre mangiato poco. Sua madre era solita litigare con lui ogni volta che tornava a casa da Varsavia, dove egli studiava all'università. Jadwiga scrollò il capo preoccupata, egli stava inghiottendo senza masticare. Sebbene ci fosse tutto il tempo prima delle 2, seguitava a guardare l'orologio. Sedeva sull'orlo della sedia, come se fosse stato sul punto di saltar giù da un momento all'altro. Gli occhi di lui sembravano guardare al di là della parete. Bruscamente si scrollò di dosso la malinconia e le disse: «Questa sera cenerò a Filadelfia.» «Con chi mangerai? Solo?» Egli prese fra la via da Jadwiga e gli disse: «Solo? Questo lo pensi tu? Mangerò con la regina di Saba. Io sono commesso viaggiatore in libri, come tu sei la moglie del papa, quell'imbroglione di rabbino per il quale lavoro. Eppure, se non fosse per lui, moriremmo di fame. E quella femmina del Bronx è senz'altro una sfinge. Tra voi tre è un vero miracolo se non sono impazzito. Parla in modo che posso capirti. Perché vuoi capire? Poiché in molta saggezza v'è molto dolore, dice l'Ecclesiaste. La verità sarà nota, non qui ma nell'aldilà, purché qualcosa rimanga nelle nostre miserabili anime, altrimenti dovremo fare a meno della verità. Vuoi un po' di caffè? Sì, ancora caffè. Che cosa c'è sul giornale? Oh, hanno concluso una tregua, ma non durerà, ricominceranno a battersi presto quei bisonti. Non ne hanno mai abbastanza. Dove succede tutto questo? In Corea, in Cina, scegli tu. La radio ha detto che Hitler è ancora vivo. Se anche un Hitler è morto, ci sono milioni di individui pronti a prendere il suo posto. Jadwiga tacque per un momento. Si appoggiò alla scopa, poi disse: la vicina coi capelli bianchi, quella dell'appartamento al piano terra, mi ha detto che potrei guadagnare 25 dollari alla settimana in una fabbrica. Mi sento sola standomene a casa per mio conto, ma le fabbriche sono così lontane. Se fossero più vicine, allora lavorerei. Non c'è niente che sia vicino a New York. Devi viaggiare sulla sotterranea o restare bloccata dove sei. Non so l'inglese. Puoi seguire un corso. Posso iscriverti a un corso d'inglese se vuoi. Non assumono nessuno che non sappia l'alfabeto, ha detto la vecchia. Te lo insegnerò io. Quando? Non sei mai a casa. Herman si rese conto che aveva ragione. E alla sua età era difficile imparare. Quando doveva firmare qualcosa con i tre circoletti, diventava rossa e sudava. Era faticoso per lei pronunciare anche la più semplice parola inglese. In genere, Herman capiva la sua parlata polacca di contadina, ma a volte la notte, quando era sopraffatta dalla passione, e la farfugliava in un intellegibile dialetto di villaggio che lui non riusciva a seguire, parole e espressioni mai udite prima. Poteva mai essere la lingua di antiche tribù contadine, risalenti forse ai tempi pagani? Herman sapeva da tempo come la mente contenga più di quanto raccoglie nel corso dell'esistenza. I geni sembrano ricordare altre epoche. Persino Wojtusz e Marianna sembravano avere un linguaggio ereditato da generazioni di papagallini. Evidentemente, tra loro si svolgevano conversazioni e il modo che avevano di spiccare il volo insieme, nella stessa direzione, entro una frazione di secondo, lasciava capire che conoscevano i reciproci pensieri. Quanto a Herman, rappresentava un enigma per se stesso. Gli impicci nei quali andava a cacciarsi sembravano pazzeschi. Era un impostore, un peccatore, persino un ipocrita. Le prediche che scriveva per Rabbi Lampert costituivano un obbrobrio e uno scherno. Egli si alzò e si avvicinò alla finestra. A pochi isolati di distanza si ondulava l'oceano. Dalla Boardwalk e da Surf Avenue giungevano gli strepiti di una mattina d'estate a Coney Island. Eppure, nella viuzza tra Mermaid Avenue e Neptune Avenue, tutto taceva. Soffiava una lieve brezza, crescevano là alcuni alberi, uccelli cinguettavano tra i rami, l'alta marea portava con sé un odore di pesce e un che di indefinibile, un fetore di putrefazione. Quando si sporgeva dalla finestra, Herman poteva vedere vecchi relitti di navi naufragate abbandonati nella baia. Creature corazzate avevano aderito ai viscidi scafi, per metà vive, per metà immerse in un sonno di prenevo. Era tanto di Jadwiga dire in tono di rimprovero: «Il caffè si sta raffreddando, torna a tavola!» Herman uscì dall'appartamento e discese di corsa le scale. Se non se ne fosse andato in fretta, Jadwiga avrebbe potuto richiamarlo indietro. Ogni volta che se ne andava, lo salutava come se i nazisti avessero governato l'America e la sua vita fosse in pericolo. Posava la gota ardente contro la sua, lo esortava a stare attento alle automobili, a non dimenticarsi dei pasti, a ricordarsi di telefonarle, gli si avvinghiava con la stessa dedizione di un cane. Herman spesso la prendeva in giro, le dava della sciocca, ma non riusciva mai a dimenticare il sacrificio che ella aveva fatto per lui. Era franca e sincera quanto lui sapeva di essere tortuoso e invischiato nelle menzogne, eppure non poteva restarle accanto giorno e notte. Thank you.